Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, eccoci di nuovo con la cronaca, i fatti e i personaggi che ci raccontano l'Italia in controluce. Il ministro della giustizia Alfano sta firmando accordi con le regioni in questi mesi per mettere a punto il piano carceri, porre un rimedio al sovraffollamento e migliorare le condizioni di detenzione nei penitenziari esistenti. Ma ci sono anche carceri modello, come quello di Bollate in Lombardia. Perché? Come funziona? Ce lo racconta Flavio Bini. Quasi tutti ormai da molti anni lo chiamano il penitenziario modello. Bollate, periferia nord di Milano. Qui, 11 anni fa, veniva inaugurata una struttura nata con uno scopo così semplice da sembrare, per molti, rivoluzionario. Rispettare la legge e garantire ai detenuti non soltanto condizioni di reclusione dignitose, ma anche un vero percorso di rieducazione, fondato sulla responsabilizzazione dei reclusi e soprattutto su una profonda cultura del lavoro. L'obiettivo? Trasformare il carcere da luogo in cui si finisce a luogo da cui ricominciare. Parole queste di Lucia Castellano, da 9 anni a guida della struttura. 1100 detenuti, la metà ha un lavoro, dentro e fuori le mura. 100 di loro escono la mattina per lavorare e tornano la sera. Gli altri sono dipendenti da alcune ditte, aziende esterne che danno lavoro all'interno, cioè che hanno dei capannoni industriali e gestiscono lavori di call center. Poi c'è una vera e propria azienda che dà lavoro a 36 detenuti di riparazione di telefonia mobile. Poi ci sono due ditte private dei detenuti, aziende artigianali. Abbiamo la cooperativa di catering, quella della falegnameria, la sartoria per le donne, la cooperativa Cascina Bollate che fa ortoflorovivaismo, la lavorazione del vetro, la lavorazione del cuoio. Il carcere dalle porte aperte, un altro dei soprannomi che si è guadagnata questa struttura. Celle aperte dalle 8 alle 20 per gli uomini e dalle 8 alle 21 per le donne. A prima vista qualcosa di straordinario, ma è solo l'applicazione di quanto prescritto già dalla legge. Su tutte la riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, che sulla spinta del dettato costituzionale concepiva il carcere come luogo di recupero e non solo di isolamento e punizione. È così, sforzandosi di applicare un'ottima legge vecchia di 36 anni, che si costruisce il modello Bollate. C'è una forbice aperta tra quello che dice la legge e quella che è la cultura, la prassi penitenziaria, che invece è figlia non di una subcultura dell'amministrazione, ma di una subcultura della società civile, che è la stessa che porta a dire che Bollate è un modello, nel senso che la subcultura è tale che se tu non fai star male il detenuto, non è carcere. In realtà quello che immagina il legislatore è esattamente Bollate. A Bollate però le porte aperte valgono in una direzione doppia. Aperte per i detenuti, liberi di spostarsi da un piano all'altro, di stare all'aperto e fare sport o all'interno per studiare e lavorare, ma aperte anche per la città, che entra dentro le mura carcerarie. Perché il carcere sia un luogo di educazione, deve essere aperto al territorio. E quando parlo del territorio significa la scuola che entra, i servizi territoriali che entrano, per esempio per i tossicodipendenti, il mondo della cultura. Noi abbiamo avuto, per esempio, e sono stati pomeriggi straordinari, abbiamo avuto da Riccardo Muti a Mario Martone a Emma Dante. C'è una contaminazione per cui il detenuto si sente parte della città di Milano, perché in quel momento Martone, mentre sta alla Scala a fare i pagliacci e Cavalleria Rusticana, sta anche a parlare con i detenuti di Bollate, perché è la medesima città. La situazione carceraria in Italia però è ben diversa da quello che accade a Bollate. Gli ultimi dati parlano di quasi 70.000 detenuti a fronte di una capienza regolare di 43.000 posti. Penitenziari che scoppiano e il governo, per tamponare l'emergenza, ha risposto con il provvedimento svuota carceri, ovvero permettere di scontare, per alcuni tipi di reati, l'ultimo anno di reclusione agli arresti domiciliari. A poco più di due mesi dall'entrata in vigore, però, soltanto poche centinaia di detenuti hanno scelto di usufruirne. Gli altri, pur potendo, preferiscono rimanere in carcere. Molti detenuti hanno preferito scontare l'ultimo anno in carcere proprio perché avevano magari un lavoro all'interno. Per esempio è successo da me che molti hanno rifiutato. E poi c'è chi non esce perché non ha nulla. Gli stranieri, i tossicodipendenti, le persone senza casa, sono tutte ad alto rischio di finire in galera. E per questo... Il carcere è una casa? Diciamo così, purtroppo in alcuni casi sì. In alcuni casi c'è una sorta di maternage dell'istituzione penitenziaria che è anche il sintomo del fatto che l'istituzione penitenziaria, il carcere, si sostituisce a tanti centri di accoglienza, molti parlano di welfare penitenziario. Il carcere paradossalmente sostituisce i centri di accoglienza, e questo è veramente un segno dei tempi su cui bisognerebbe fare una riflessione. Italia in controluce. Si è parlato molto dei tagli alla cultura in questi ultimi mesi e abbiamo sentito diversi punti di vista. Questo è quello di Gian Antonio Stella, autore assieme a Sergio Rizzo della Casta qualche anno fa sullo scandalo dei costi della politica, e questa volta invece ha firmato, sempre insieme al collega Rizzo, Vandali, l'assalto alle bellezze d'Italia. L'ha intervistato Floriana Liuni. L'Italia ha un vasto patrimonio culturale e artistico, lo valorizza poco, ma non è una scoperta di oggi. In quanti modi l'Italia vandalizza le proprie risorse? Tantissimi. Si è persa l'idea non solo di essere detentori di un grande patrimonio culturale, ma si è persa anche l'idea della bellezza, purtroppo. Cosa hanno fatto in questi anni, soprattutto la televisione, che è il più formidabile mezzo di comunicazione che esista, per educare i cittadini ad avere rispetto del paesaggio, rispetto dei beni monumentali, culturali e artistici che abbiamo? Eppure sappiamo bene quanto vale il nostro patrimonio artistico. A chi non giova che venga valorizzato? Perché lo si trascura? Perché le priorità di chi governa non sono queste. Se le priorità della politica sono quelle di vincere l'elezione successiva e non quella di governare, non vedo perché dovrebbero occuparsi di queste cose. Una persona di buon senso che facesse il Presidente del Consiglio in Italia dice: come mai noi ci guadagniamo col turismo meno di paesi che hanno la metà, un terzo, un quarto, un quinto, un decimo delle nostre ricchezze monumentali, culturali, artistiche? Come mai? Ma allora le opere d'arte saccheggiate in Italia che prendono il volo verso l'estero non è meglio che restino lì invece di essere rimpatriate? Certo, qualche volta questo sospetto ti viene, perché non riesco a rassegnarmi al fatto che siamo il paese più colpito in assoluto dai furti di opere d'arte. L'altro giorno si sono portati via un quadro di grande valore dallo studio di Rosa Russo Iervolino al comune di Napoli. Se lo sono portato via. Su 69.000 detenuti italiani, neppure uno è in galera per furti d'opere d'arte. La legge del 2004 ha fatto sì che praticamente tu non puoi arrestare un tombarolo solo se lo becchi mentre rovina un'opera d'arte, se no non lo puoi arrestare. E se tu becchi uno scippatore che porta via 10 euro, lo puoi arrestare in flagranza di reato. Se becchi uno che si porta fuori una statua, che ne so, la Venere di Morgantina, lo puoi soltanto denunciare. Questo è inaccettabile. A proposito della Venere di Morgantina, nella sua precedente sede americana attirava milioni di turisti, ma che fine farà una volta tornata ad Aidone in Sicilia? Io spero che abbiano ragione quanti dicono che la Venere di Morgantina, con la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, possano insieme creare un micro polo di eccellenza archeologica, attirando migliaia e migliaia di visitatori. Certo, non arriveremo mai ai numeri americani, sicuramente rischiano di perderci i visitatori di tutto il mondo, perché arrivare ad Aidone non sarà per niente semplice. E allora i veri vandali chi sono? Sicuramente un vandalo, o quel signore che a Selinunte va a scrivere su una colonna il suo nome, mettendo Francesco Bertolino, nome e cognome, la data in cui è andato a fare quella schifezza. E però, voglio dire, certo, danni ancora maggiori li fa chi taglia in modo, secondo me, cieco i finanziamenti ai beni culturali. Abbiamo fatto i conti assieme a Sergio Rizzo, negli ultimi 10 anni il finanziamento alla cultura è più che dimezzato. Beh, se tutti quanti si fossero comportati come quanti hanno avuto responsabilità nel restauro di Venaria Reale, l'Italia sarebbe un paese meraviglioso. Quel che è certo è che purtroppo Venaria Reale resta un'eccezione, una meravigliosa eccezione. Ed è tutto anche per questa puntata. Contattateci su Facebook per commentare i servizi o raccontarci le vostre storie. Radio 24 Italia in Controluce, oppure scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.